costei bizzarra. Preghi chi vuol, che per me solo io voglio queste labbra, questi occhi e questo seno. Non so io seggia o flor, non so prezzo il tesoro che non sa d'ombra. Ma qual foglia qui scrive? Dario molto non è, scrisse ad Argene. Dario ad Argene? Sì, qui Dario scrisse, né mi inganna lo sguardo. Giunse allo scopo il dardo. Ah, forse con l'amato anche la suora, e labbra e core e se rapirmi vuole, scellerato inumana. Ambitiranni, no, non l'avrete. Io voglio questi per me. Ma prima si legga il foglio. Mia luce, mio tesoro, per te mi struggo e moro. Per Argene il crudele si strugge e muore. Non lo dissimo che dai un traditore. Con la spoglia del mio l'accordo tenta, cresce alla sua amante altro tesoro. Ma l'amante io non sono. Tal si giurò, si disse, e in replica di foglia me lo scrisse. Quanta semplicità in cor di donna. Dunque, Dario infedele, mi ruba Argene, lo sposo, io son tradita e invendicata. No, sento il crudele, l'ingrata sento, i rimproveri miei, le mie vendette. A sgridar Dario io vo, il lor cor li sveglio, con questa mano oltrice, vado, volo il crudele. Che non lice. È meglio un foglio. Flora, eccomi pronta. Ma non sarà una carta rimprovero efficace. È meglio un messo, questo sì. Flora, Flora. Io già qui sono. Vanne. Dove? Si va, ma no, t'arresta. Non ben esprimerai rabbia, sdegno, furor che mi divora. Gelosi al fin, a simplicetta ancora. Fuori, tormentata, agitata, tormentata, vada fuori, fuori. Dalle fuori tormentata, dalle fuori tormentata, agitata, agitata, volevo, volevo, volevo. Ma dove? Alla Germana, a Dario l'infedele. Questo no, sia pur d'Argene Dario, a me non cade, amanti e sposi sia, nulla voglio.